ascolti? Sì. Se non ti ascolto devo buttare tutto. E beh, Brigido, come andiamo? Mi sono appena alzato, Natali, appena alzato. Alle 10 sono in servizio, sei smonto domani alle 2:30. Ma tu gliel'hai pigliata una di notte, oggi? Eh sì, è smonto alle 2:30, alle 2:30 del pomeriggio. Sì, lo so, lo so. C'è la prova? Che storia. Perché non c'è uno che sta male, quindi bisogna compiere il turno di questo qui. Luia, per carità. Ma per carità, Wilbero. Se tutto va bene, siamo rovinati. La modulazione è bassa, è nata lì. Sai, si barrendi tutti i nomi. Andale, andale, andale. Vuol dire che funge bene questo portatile. Sì, che funge. Come Luca, con pochi soldi. A chi non te lo buono in macchina, Luca Racchino? Ma dov'è? Siamo che in macchina, che non vuoi nessuno, che ha sentito il QRM. Ah, ho già per gente. Non ci vuole mica un genio per capire che... Dopo le 8 c'è gente che parla. Capito? Prima chiudono tutti alle 7:30, 8, là. Da voi entra la traiente sul 12. Poi mi accendo la televisione in macchina, che il governo ha mai di film su Netflix. Ah, cappa. E allora passa così. Ogni tanto ho fatto un giro di ispezione. Casa radio. Ui, lascia perdere che non vale più la pena. In effetti io ce l'ho in macchina, ma no. C'ho tutto, c'ho l'antenna, c'ho il baracchino per la macchina. Ma io non le sto mettendo più. Ui, non ne vale la pena. Ma pago. Se dopo passa anche io, adesso me lo vado anche in macchina, ti faccio una buona macchina. Tu là non ne può più nessuno baracchino, allora non puoi dare pure a me c'è la macchina con il baracchino, perché non ne tocca a nessuno più. Sì, già la chiappa sempre che anche di grazzata fa si rivela, non ti preoccupare, che già ti la briga, se la la gambica. Ma ormai c'hanno internet, chi vuoi che lo tocchi il baracchino, cazzo? Non ne vorrà più nessuno. Aspetta un attimo, Natali, che vado a cambiare l'acqua alle olive. Sì, camminami. Ehi, Billy! Ui! Uia! Tu vorrai andare dove è pura? Ma la Zucchi! E oggi ci sta facendo freddo. Sì, casi la temperatura mette a bascende, già 9 gradi ci sono da adesso. Bravaccia. Aspetta stasera che ieri notte c'erano 3 gradi. Passa montagna stanotte e andare. E infatti uno si deve dare a me, no guai, io sono tutto digradiato, tutto influenzato, io sono tutto lunga. Mamma mia. Ma se sono stato, ho preso l'influenza 2 volte, pensa a 2. Vabbè, rimane, mi manca, rimane, ho visto 5 gatti, è macribato, ma... Ma... Non si può, no? C'è in giro adesso, c'è un'influenza, una nuova influenza c'è in giro. Infatti mi ha fuggito a me, sono riuscito a fare commissione, mica mi ha fuggito. Mi ha fuggito. In classe succede... Ma infatti non c'era nessuno oggi. No, sono entrato solo due, non si intese nessuno. Ci ho mandato solo, è entrato da niente. E il Torino che ce l'ha fatto, mi sei zitto. Ma rimane l'agenzio, ieri sera. E a me l'ho sentito io una settimana fa, mi fa, ma mi ha preso la macchina nuova. E buh. E che macchina si ha pigliato? Fino allora. E buh, mi sembra una Ford Focus, station wagon. Però non so se l'ha presa nuova o usata, perché l'altra dice che gli dava problemi, adesso la sistema e se la vende. Sì, fratello. Oh, signore. Sì, è anche la bevindissa, che sa dire che 1.000 euro non la vendeva, neanche 1.000 euro li danno, c'ha un bel chilometro. Infatti, secondo cosa va la mia rottamata? doveva acquistarla, e ormai i pezzi li ha presi, c'erano già i pezzi, lui doveva aspettare che comprasse la nuova, aspettare, si sistemava quella lì, pensa che non durava, e a lui se la giambava. E poi il motore che gira bene, anche se c'ha quel chilometro lì, cazzo, gira bene il motore. Ma che vuoi che ti dico? Speriamo che entri qualcuno stasera. Già, mi dà però. Stanno a fare la ciuccia con i drulli, mi. No, ma no, fagiolini insalata, non fagiolo. Fagiolini insalata e patate, insalata. Boni. Buono sì. No, cazzo, portando sempre affrettato, basta, c'ho lo stomaco che sembra cazzo un tamburo. Cazzo, va un po' con cazzo, ma ne poi. Cazzo, già sta secco. No. Ui. Ma secco quasi male, ma raggiungi. No, troppo passate, panini, non va bene, no. Non va bene, no. Infatti non andate roba di patita, bibù. Consapevolezza piena. Che cazzo c'ha lì? Io mi porto anche la pasta, solo che cazzo di la manivetta non va bene neanche. Perché se c'era stato la corrente, mi avrei portato quel fornellino elettrico, perché c'ho quel fornellino alla piazza, mi avrei portato e mi avrei scaldato, ma non avrei mai correnti, il clube. Non ti puoi comprare un di questi fornellini a gas con quelle bombolette e così te la scaldi, ma no, li vendono quelli lì da campeggio, quei fornellini a gas. Ma mi sembra che ce l'ho pure, ma che cazzo sei, non posso stare con fornellini a gas, cazzo mi riavvo con qualche cosa, è un casino, Ah, se c'è pericolo no, non fa. Non fa perché cazzo c'è questo cazzo di gabbiotto che ti hanno dato e i pannelli sono in truciolare, il fondo lo stesso è tutto quanto compressato, guarda che cosa, cazzo ti devo comprare un gabbiotto nuovo lì. Per carità, cazzo, che vitaccia proprio. Ma è una vitaccia vero, però chissà sì che è una vitaccia. Ah, pure la pila l'ho presa, mio Natali, 40 euro, bella. In pratica sono quelle pile, quelle che usano le militari, quelle militari è impermeabile, puoi caricare anche il telefono, ti puoi caricare. Bello, c'è il digitale che ti sembra quanto batteria c'hai di autonomia. Deve essere bella, sì. Ma com'è quella nera che conosco io, che sembra un manganello, oppure un altro tipo? Allora, è nera, però non è, è in ferro, è in ferro, tutto il manico. Cazzo, vai che questa tirata di luce, di lusso, Natale, bella veramente. Pensavo che era una mezza cagata, invece funziona benissimo. Aspetta un attimo di bianco. Sì, ragazzi, il professore Manuele. Ehi, vai tranquillo. Billy! Billy! Su che andiamo? Nuova puntata!